Sapevo che la situazione in cui mi mettevo era fra tutte quella che poteva avere su di me da parte dei miei genitori le più gravi conseguenze. Certo, ben più gravi di quanto un estraneo avrebbe potuto supporre, di quelle che avrebbe ritenuto potessero essere prodotto soltanto di colpe veramente vergognose. Ma nell'educazione che mi veniva impartita, la gerarchia delle colpe non era la stessa che nell'educazione degli altri ragazzi. E mi avevano abituato a porre prima di tutte le altre colpe, senza dubbio perché da nessuna come da quelle c'era bisogno che io fossi più attentamente preservato, quelle la cui caratteristica comune, lo capisco ora, è di commetterle cedendo a un impulso nervoso. Ma questa espressione allora non veniva pronunciata, non se ne denunciava quell'origine che avrebbe potuto indurmi a ritenere scusabile il mio cedimento, o forse addirittura la mia incapacità di resistervi. Io però le riconoscevo bene, dall'angoscia che le precedeva, non meno che dal rigore del castigo che le seguiva, e sapevo che quella di cui m'ero appena macchiato era della stessa famiglia, benché infinitamente più grave, di altre per le quali ero stato severamente punito. Una volta che fossi andato incontro alla mamma al momento in cui saliva a coricarsi e lei avesse visto che ero rimasto alzato per darle un'altra volta la buonanotte nel corridoio, non mi avrebbero più permesso di restare a casa. Mi avrebbero spedito in collegio l'indomani stesso, era certo. Ebbene, avessi anche dovuto buttarmi dalla finestra 5 minuti dopo, tutto questo era ancora preferibile. Ora quello che volevo era la mamma, era dirle buonanotte. Mi ero spinto troppo in là, sulla via verso la realizzazione di quel desiderio, per poter tornare indietro. Sentii i passi dei miei che accompagnavano Swan, e quando la campanella della porta mi avvertì che se n'era andato, mi affacciai alla finestra. La mamma stava chiedendo a mio padre se aveva trovato buona l'aragosta e se Swan aveva preso dell'altro gelato al caffè e pistacchio. «A me è parso che sapesse di poco», disse la mamma. «La prossima volta bisognerà provare un altro sapore». «Non saprei dire, ma trovo Swan molto cambiato», disse la prozia. «È di un vecchio». La prozia era talmente abituata a vedere in Swan sempre lo stesso adolescente che si stupiva di trovarlo tutto a un tratto meno giovane dell'età che lei continuava ad attribuirgli. E i miei, del resto, cominciavano a vedere in lui quella vecchiezza anormale, eccessiva, vergognosa e meritata degli scapoli, di tutti quelli per i quali sembra che il gran giorno che non ha domani sia più lungo che per gli altri. Perché per loro è vuoto e gli istanti vi si sommano sin dal mattino senza poi dividersi fra un certo numero di figli. «Credo che abbia molti dispiaceri con quella sgualdrinella di moglie che vive con un certo messier di Charlie. Lo sanno tutti a Combre, è la favola della città». La mamma fece notare che da qualche tempo però lui aveva un'aria molto meno triste. «Fa anche molto meno spesso quel gesto, tale quale suo padre, di asciugarsi gli occhi e passarsi la mano sulla fronte. Io penso che in fondo non la ami più, quella donna». «Ma naturale che non l'ama più», replicò mio nonno. «Ho ricevuto da lui già diverso tempo fa una lettera in proposito, alla quale mi sono ben guardato dal conformarmi, ma che non lascia alcun dubbio sui suoi sentimenti, perlomeno quelli d'amore, nei confronti della moglie. Ah, a proposito, voi non l'avete ringraziato per l'asti?» aggiunse il nonno rivolto alle due cognate. «Come non l'abbiamo ringraziato? Anzi, detto fra noi, mi sembra di essere riuscita a porgergli la cosa con una certa delicatezza», rispose zia Flora. «Sì, te la sei cavata molto bene, ti ho ammirata», disse zia Céline. «Oh, ma anche tu sei stata bravissima». «Sì, ero molto fiera della mia frase sui vicini gentili». «Cosa? E questo lo chiamate ringraziamento?» esclamò il nonno. «Sì, ho sentito anch'io, ma mi prendo un accidente se ho pensato che fosse per Swan. Ma potete star certe che non ha capito niente». «Ma andiamo, Swan non è uno sciocco. Sono sicura che ha apprezzato. Mica potevo andare a dirgli il numero di bottiglie, il prezzo del vino». Mio padre e mia madre rimasero soli. E si sedettero un momento, poi mio padre disse: «Bene, Se vuoi, possiamo andare a dormire. O se vuoi tu, caro, anche se io non ho un'ombra di sonno. Eppure non può essere stato quel gelato di caffè così innocuo a tenermi tanto sveglia. Ma vedo la luce nel tinello, e siccome la povera Françoise è lì che aspetta, le chiederò di slacciarmi il busto mentre tu ti spogli. E la mamma aprì la porta traforata del vestibolo che dava sulle scale. Subito dopo sentì che saliva a chiudere la sua finestra. Senza far rumore, andai nel corridoio. Il cuore mi batteva così forte che camminavo a fatica, ma almeno non mi batteva più per l'ansia, ma per lo spavento e la gioia. Nel vano della scala vidi la luce proiettata dalla candela della mamma, poi vidi lei e le corsi incontro. Lì per lì mi guardò stupefatta, senza capire cosa fosse. Poi il suo volto assunse un'espressione di collera, non disse una parola. In effetti, per molto meno di così, non mi rivolgeva più la parola per giorni. Se m'avesse detto qualcosa, sarebbe stato come ammettere che mi si poteva ancora parlare, e questo del resto mi sarebbe parso ancora più terribile, il segno che di fronte alla gravità del castigo che si andava preparando, il silenzio e la freddezza sarebbero stati puerili. Una parola sarebbe stata la calma con cui si risponde a un domestico quando si è appena deciso di licenziarlo. Il bacio che si dà a un figlio quando lo si manda ad arruolarsi, mentre glielo si rifiuterebbe se ci si dovesse limitare a tenergli il broncio per 2 giorni. Ma lei sentì mio padre salire dalla stanza da bagno, dove era andato a spogliarsi, e per evitare la scenata che mi avrebbe fatto, mi disse con voce soffocata dalla collera: «Scappa, scappa, che almeno tuo padre non ti veda aspettare così come un pazzo!» Ma io le ripetevo: «Vieni a darmi la buonanotte», terrorizzato dalla vista del riflesso della candela di mio padre che si allungava già sulla parete, ma sfruttando anche il suo incombere come mezzo di ricatto, nella speranza che la mamma, per evitare che lui mi trovasse ancora lì, se lei avesse insistito nel rifiuto, mi dicesse: «Torna in camera tua, vengo subito». Troppo tardi. Mio padre era già davanti a noi. Senza volerlo, mormorai queste parole che nessuno sentì: «Sono perduto». Ma non fu così. Mio padre mi negava di continuo dei permessi che mi erano stati accordati nei patti meno rigidi che mi erano stati concessi dalla mamma e dalla nonna, perché non si curava dei principi. Per lui non aveva alcun valore il diritto delle genti. Per un motivo del tutto contingente, o addirittura senza motivo, era capace di cancellarmi all'ultimo momento una certa passeggiata così abituale, così consacrata, che non si poteva privarmene senza uno spergiuro. O addirittura, come aveva fatto anche quella sera, molto prima dell'ora rituale mi diceva: «Su, vai a dormire, poche storie». Ma appunto perché non aveva principi, nel senso della nonna, non aveva, a dire il vero, alcuna intransigenza. Mi guardò un attimo con aria stupita e contrariata, e poi, dopo che la mamma gli ebbe spiegato con qualche imbarazzo cos'era successo, le disse: «Ma su, va con lui allora. Dicevi che non hai voglia di dormire. Allora resta un po' in camera sua. Io non ho bisogno di niente». «Ma caro», rispose timidamente la mamma, «che io abbia voglia o no di dormire non cambia nulla. Non si può abituare il bambino». «Ma non si tratta di abituare», disse mio padre con un'alzata di spalle. «Non vedi che non sta bene? Ha un'aria desolata questo bambino, su. Non siamo mica dei carnefici. Quando l'avrei fatto ammalare, poi cosa ci avrei guadagnato? Ci sono 2 letti in camera sua. Dì a Françoise di prepararti quello grande e dormi con lui stanotte. Su, buonanotte. Io che non sono nervoso come voi, me ne vado a dormire». Non si poteva ringraziare mio padre. L'avrebbero soltanto infastidito quelle che lui chiamava svenevolezze. Restai lì senza osare il più piccolo movimento. Lui era ancora davanti a noi, alto, nella sua camicia da notte bianca, sotto il cashmere indiano viola e rosa che si annodava intorno alla testa da quando soffriva di nevralgie, con l'atteggiamento di Abramo nell'incisione da Benozzo Gozzoli, regalo di Swan, nell'atto di imporre a Sara di separarsi da Isacco. Da allora sono passati molti anni. La parete della scala su cui vidi avanzare il riflesso della sua candela non esiste più da un pezzo. Anche dentro di me tante cose che credevo dovessero durare per sempre sono andate distrutte, e altre sono sorte al loro posto, dando origine a nuove sofferenze e a nuove gioie che allora non avrei potuto prevedere, così come le antiche mi è ormai difficile comprenderle. Da molto tempo anche mio padre ha cessato di poter dire alla mamma «va col bambino». La possibilità di simili momenti non mi si presenterà mai più, ma da qualche tempo ho ricominciato a distinguere con molta chiarezza, settendo l'orecchio, i singhiozzi che ebbi la forza di trattenere davanti a mio padre e che scoppiarono soltanto quando mi ritrovai solo con la mamma. In realtà non sono mai cessati, ed è solo perché ora la vita tace più spesso intorno a me che li sento di nuovo, come le campane di quei conventi che i rumori della città coprono così bene durante il giorno, che si crederebbero ferme, ma che si rimettono a suonare nel silenzio della sera. La mamma passò quella notte nella mia stanza. Ora che avevo commesso una colpa tale che mi aspettavo di essere allontanato da casa, i miei genitori mi concedevano più di quanto avessi mai ottenuto da loro come ricompensa di una bella azione, proprio nel momento in cui si manifestava nella concessione di quella grazia. La condotta di mio padre verso di me conservava qualcosa di arbitrario e di immeritato che era la sua caratteristica e che dipendeva più da circostanze fortuite che da un piano premeditato. Forse anche quella che io chiamavo la sua severità quando mi spediva a letto meritava quella definizione meno di quella della mamma o della nonna, perché la sua natura, per certi aspetti più diversa dalla mia di quanto non fosse la loro, probabilmente non aveva ancora intuito fino ad allora quanto fosse infelice ogni sera, cosa che la mamma e la nonna sapevano bene, ma loro due mi amavano tanto da non volermi risparmiare la sofferenza, volevano insegnarmi a dominarla per diminuire la mia sensibilità nervosa e rafforzare la mia volontà. Quanto a mio padre, il cui affetto per me era di altra natura, non so se avrebbe avuto quel coraggio. Per una volta che si era accorto che ero triste, aveva detto alla mamma «Su, va a consolarlo». E la mamma restò quella notte in camera mia e quasi non volesse guastare col minimo rimorso quelle ore così diverse da quelle che avrei avuto ragione di aspettarmi, quando Françoise, intuendo che stava succedendo qualcosa di straordinario, vedendo la mamma che, seduta accanto a me, mi teneva la mano e mi lasciava piangere senza sgridarmi, le chiese «Ma, madame, cos'ha il signorino da piangere così?» «Ma non lo sa neanche lui, Françoise. È snervato. Preparatemi subito il letto grande e poi andate a dormire». Così, per la prima volta, la mia tristezza non era più considerata una colpa da punire, ma un male involontario che veniva riconosciuto ufficialmente, uno stato nervoso di cui non ero responsabile. Avevo il conforto di non dover più mescolare degli scrupoli all'amarezza delle lacrime. Potevo piangere senza peccato. Ed ero non poco fiero, di fronte a Françoise, di questo capovolgimento delle cose umane che un'ora dopo che la mamma s'era rifiutata di salire in camera mia, facendomi rispondere sdegnosamente che mi mettessi a dormire, mi elevava alla dignità di adulto, facendomi pervenire di colpo a una specie di pubertà del dolore, di emancipazione delle lacrime. Avrei dovuto essere felice, ma non lo ero. Mi sembrava che la mamma mi avesse fatto una prima concessione che doveva essere stata dolorosa, che si trattasse di una sua prima abdicazione all'ideale che aveva immaginato per me e che per la prima volta lei, così coraggiosa, si dichiarasse vinta. Mi pareva che, seppur avevo riportato una vittoria, era una vittoria contro di lei. Ero riuscito a piegare la sua volontà, a indebolire la sua ragione, come avrebbero potuto fare la malattia, i dispiaceri o gli anni. E quella notte, in cui cominciava una nuova era, sarebbe rimasta una data triste. Se ora avessi avuto il coraggio, l'avrei detto «No, non voglio, non dormire qui». Ma conoscevo la saggezza pratica, realistica, si direbbe oggi, che temperava in lei la natura ardentemente idealistica della nonna. E sapevo che, ora che il male era fatto, Avrebbe preferito lasciarmene almeno assaporare il piacere calmante e non disturbare mio padre. Certo, il bel volto della mamma splendeva ancora di giovinezza quella sera, in cui mi teneva così dolcemente le mani e cercava di frenare le mie lacrime. Ma proprio questo mi sembrava che non avrebbe dovuto essere. La sua collera sarebbe stata meno triste per me di quella dolcezza nuova che la mia infanzia non aveva conosciuto. Mi pareva di avere tracciato con mano empia e segreta una prima ruga nella sua anima e di averle fatto spuntare un primo capello bianco. Quel pensiero raddoppiò i miei singhiozzi e allora vidi la mamma, che con me non si lasciava mai andare ad alcuna tenerezza, essere di colpo conquistata dalla mia e cercare di trattenere una voglia di pianto. Intuendo che me ne ero accorto, mi disse, ridendo, «Guarda il mio giallino, il mio piccolo canarino, che fa diventare la sua mamma stupidina come lui, se non la smettiamo. Su, visto che non hai sonno e la mamma nemmeno, non stiamo qui a snervarci. Facciamo qualcosa, prendiamo uno dei tuoi libri». Ma lì non ce n'erano. «Ti dispiace se tiro fuori adesso i libri che la nonna ti vuole regalare per la tua festa?» «Pensaci bene, però. Non ci resti male, poi, se dopodomani non riceverai più niente?» Al contrario, io ero entusiasta, e la mamma andò a cercare un pacco di libri di cui non mi fu possibile indovinare, dalla carta che le avvolgeva, altro che il formato basso e largo, ma che già sotto quel primo aspetto, pur sommario e velato, eclissavano ai miei occhi la scatola di colori di Capodanno e i bachi da seta dell'anno precedente. Erano L'Amaro Diable, François Le Champy, La Petite Fadette e Le Maîtres Sonnets. In un primo tempo, seppi poi, la nonna aveva scelto le poesie di De Musset, un volume di Rousseau e Indiana, perché se giudicava le letture futili altrettanto malsane quanto le caramelle e i pasticcini, era convinta che il gran soffio del genio non potesse avere sulla mente anche di un ragazzo un influsso più pericoloso e meno vivificante di quello esercitato sul corpo dall'aria libera e dal vento di mare. Ma avendola mio padre trattata quasi da pazza quando aveva saputo quali libri mi voleva regalare, la nonna era tornata di persona dal libraio a Jouy-le-Vicomte perché non rischiassi di restare senza regalo. Era un giorno di caldo feroce, quando era rientrata stava così male che il medico aveva avvertito la mamma di non lasciarla stancare a quel modo. E aveva ripiegato sui 4 romanzi campestri di George Sand. «Figlia mia», diceva alla mamma, «non potrei mai risolvermi a regalare a questo ragazzo qualcosa che sia scritto male». In realtà, non si sarebbe mai rassegnata ad acquistare qualcosa da cui non si potesse trarre un profitto intellettuale. Soprattutto quello che ci procurano le cose belle, insegnandoci a ricercare il piacere lontano dalle soddisfazioni del benessere e della vanità. Anche quando doveva fare a qualcuno un regalo per così dire utile, per esempio una poltrona, un servizio di piatti, un bastone da passeggio, li cercava antichi, come se, cancellato dal lungo disuso il loro carattere utilitario, quegli oggetti apparissero disposti a raccontarci la vita di uomini d'altri tempi, più che a soddisfare i bisogni della nostra epoca. Avrebbe voluto che tenessi nella mia stanza le fotografie dei monumenti o dei paesaggi più belli, ma al momento di farne l'acquisto, sebbene l'oggetto rappresentato avesse un valore estetico, trovava che la volgarità, l'utilità, riprendessero troppo presto il sopravvento in quel modo meccanico di rappresentazione, la fotografia. Tentava, allora, di giocare d'astuzia. E quantomeno di ridurre, se non di eliminare del tutto, la banalità commerciale, sostituendola il più possibile con altra arte, e di introdurvi, per così dire, svariati spessori di arte. Invece di fotografie della cattedrale di Chartres, dei grandi giochi d'acqua, Grand Eau de Saint-Cloud, del Vesuvio, si informava da Swann se qualche grande pittore li avesse rappresentati, e preferiva regalarmi le fotografie della cattedrale di Chartres dipinta da Corot, dei giochi d'acqua di Saint-Cloud dipinti da Hubert Robert, del Vesuvio dipinto da Turner, il che rappresentava un grado d'arte in più. Ma se il fotografo era stato escluso dalla rappresentazione del capolavoro o della natura e rimpiazzato da un grande artista, riacquistava i suoi diritti nel riprodurre quella stessa interpretazione. Giunta al momento ineluttabile della volgarità, la nonna cercava di differirlo ancora. Domandava a Swan se esistessero incisioni tratte dall'opera, preferendole quando possibile antiche e che presentassero qualche interesse supplementare, al di là del loro valore intrinseco, per esempio quelle che rappresentano un capolavoro in una condizione materiale in cui oggi non è più possibile vederlo. Per esempio, l'incisione della cena di Leonardo, eseguita da Morgan prima del deterioramento dell'affresco. Occorre dire che i risultati di quel modo di intendere l'arte di fare regali non furono sempre brillantissimi. L'idea che mi fece di Venezia, da un disegno di Tiziano che si presume abbia per sfondo la laguna, era certamente molto meno esatta di quella che avrei potuto ricavare da delle semplici fotografie. A casa, quando la prozia voleva pronunciare una requisitoria contro la nonna, non si riusciva più a tenere il conto delle poltrone da lei regalate a giovani fidanzati o a vecchi sposi che, al primo tentativo di usarle, si erano immediatamente sfondate sotto il peso di uno dei destinatari. Ma alla nonna sarebbe parso troppo meschino occuparsi della solidità di un mobile sul quale si potevano ancora distinguere un fiorellino, un sorriso, a volte una bella fantasia del passato. Anche ciò che in quei mobili rispondeva a una funzione, ma in una foggia alla quale non siamo più abituati, la affascinava, come quei vecchi modi di dire in cui è riconoscibile una metafora cancellata nel nostro linguaggio moderno dall'usura della consuetudine. Ora, per l'appunto, i romanzi campestri di George Sand che lei mi regalava per la mia festa erano pieni, al pari di un mobile antico, di espressioni cadute in disuso e ridivenute immaginifiche come si trovano ormai soltanto in campagna. E la nonna li aveva acquistati preferendoli ad altri, così come avrebbe preso più volentieri in affitto una proprietà dove ci fosse stata una piccionaia gotica o qualcuna di quelle vecchie cose che esercitano sullo spirito un favorevole influsso, suscitando la nostalgia di impossibili viaggi nel tempo.